Domani c'è questa manifestazione regionale fatta dal Forum Energia e Territorio Beni Comuni, che è nato da un paio di mesi dall'esigenza proprio di comitati, movimenti, associazioni di mettere in campo un primo momento di mobilitazione, di raccordo fra tutte le esperienze che erano maturate nei vari territori, perché qui oggi c'è un problema legato alle queste energie, che è un problema molto grosso. Ormai dal Salento al Gargano è un proliferare di impianti di centrale biomasse liquide, di inceneritori, di centrali a turbogas, di impianti fotovoltaici e eolici, diciamo, su larga scala, e quindi noi crediamo il momento di raccordare queste istanze, soprattutto queste mobilitazioni, per cercare comunque di incidere sulla politica regionale pugliese fatta dal governatore Vendola. Qui oggi ci troviamo, diciamo, noi oggi parliamo per esempio della Puglia come una piattaforma logistica per imprese che vogliono fare profitti nel settore dell'energia. E quindi c'è bisogno di una risposta concreta da parte dei movimenti, delle realtà autorganizzate. L'atteggiamento di Vendola fino adesso è abbastanza, diciamo, di ignorare questa cosa qua, diciamo. Anche in vertenze locali, sì, in parte vengono magari recepite alcune cose, però molto spesso vengono completamente ignorate. Noi oggi abbiamo un problema grosso anche, per esempio, sulla questione dei rifiuti. Abbiamo in Puglia una raccolta differenziata molto bassa, intorno al 15%, allora Vendola ha una paura fottuta che di far la fine della campagna, e quindi oggi si stanno promuovendo per esempio inceneritori privati, quelli per esempio in mano al gruppo Marcegaglia, e uno in costruzione a Borgo Santi, tra Cerignola e Manfredonia, uno già realizzato a Zafra, un altro a Modugno. Quindi c'è un problema serio da questo punto di vista, anche di centrale biomasse. Ci sono centinaia di progetti di centrale biomasse liquide che importeranno olio di palma, olio di altre piante dall'Asia o dall'Africa, e quindi crediamo che queste tematiche vadano affrontate immediatamente. Ah, per esempio c'è a Barletta un problema grossissimo: noi abbiamo una cementeria che ha chiesto l'autorizzazione per passare da 27.000 a 80.000 tonnellate di rifiuti da bruciare nei propri forni, e questa cementeria si trova nel cuore della città, e noi forse saremmo una delle prime città al mondo ad avere un inceneritore, una delle poche ad avere un inceneritore proprio nel cuore della città. C'è per esempio la questione di Borgo Tressante, l'inceneritore che stanno costruendo della Marcegaglia. Ci sono progetti per esempio nel Salento di impianti fotovoltaici su centinaia di ettari che sottraggono chiaramente il territorio all'agricoltura e sfruttano il territorio. Quindi noi, queste sono vertenze che domani saranno in campo. Ci saranno anche compagni da Taranto, dove c'è il problema gravissimo dell'Ilva, e non solo, e quindi queste tematiche verranno portate in piazza domani, perché noi per esempio chiediamo una moratoria su tutti gli impianti che siamo in fase di progettazione, in fase, diciamo, di approvazione. Soprattutto vogliamo che, visto che la Regione Puglia entro dicembre dovrebbe recepire le linee guida in campo energetico, vorremmo che il Presidente Vendola ascolti le realtà di base.